questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ma sai, Daniele, che viene detto prima il mio nome per forse per galanteria, perché in realtà in ordine alfabetico dovresti essere prima tu. Vabbè, insomma, buongiorno e bentornati a Radio Tube, l'appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana, ma questa settimana è tutto imperdibile, tra TV, web TV, social TV, tutto quello di cui parla la rete, anche la domenica nella puntata della domenica. Soprattutto a me, lo sai, io amo la domenica. Ma quanto ti piace la domenica? Sì, perché il sabato è più malinconico, io amo la domenica. E invece sono così, un po' crepuscolare. Per il sabato, per la par condicio. Io sì, ma anche perché sono una donna così, un po' fendo e siècle. Questa Che lancio di trasmissione, scusa, dobbiamo parlare. Parliamo di letteratura. Parliamo, no, di letteratura. Non vorrei mica fare la solita trasmissione. Si può fare letteratura al tempo del web con i social network? Vabbè, mi alzo e me ne vado. Io pensavo di no, fare una cosa. Anche perché tutto sommato sono io che ti ho quasi costretto. Vabbè, diciamolo. No, letteratura, social network. Social network. Addirittura web series, perché c'è anche qualcuno series, che ha parlato di letteratura. Series. Fenomeni della rete che riguardano i libri e gli scrittori e due ospiti straordinari che però vi presento tra qualche istante. Io vorrei partire dalle web series. Sì, perché quando tu dici letteratura al tempo d'oggi, oggi, qual è il primo scrittore che ti viene in mente? A Valeria in regia. Se uno dice letteratura oggi, ti viene in mente Fabio? No, non è, dice di no, che a lei quello lì non viene in mente. È venuto in mente Hyde Pills. Che noi amiamo particolarmente. Che sono diventati famosissimi. Famosissimi, adesso. Lo erano già, un grandissimo forse, lancio. Noi li abbiamo lanciati. The Pills. Che hanno parlato di questo straordinario scrittore al quale io sono molto affezionata, soprattutto è il più preso. Ma tu hai letto i suoi libri? Qualcosa ho letto. Di nascosto o avevi il coraggio di farlo in pubblico? No, anche in pubblico. Senza vergogna mai, ma sentiamo come inizia questo straordinario episodio dei The Pills. Mi stavo dimenticando. Cosa? Allora, ti ho preso un pensierino. No, dai, amore, non, cioè, non dovevi. Dai, amore, posso dartelo subito? Va bene. Mannaggia, non dovevi. Dai, amore, a voi. Dai, aprilo. Ti piace? Ah, Fabio Volo. Ti piace? Sì, grazie. Stavo, guarda, giusto appunto finendo un saggio di Brecht e ci sta proprio bene un bel Fabio Volo. Ma sì, ero indecisa tra Fabio Volo e il Teatro dell'Assurdo, però ho pensato che comunque Fabio Volo sarebbe stato perfetto perché... Sì, giusto, vero? Infatti. Ah, meno male. Grazie amore, grazie. Vabbè, non possiamo dire come finisce, perché altrimenti leviamo tutta la guardarlo, suspense. Dovete guardarlo, cercatelo, si chiama Fabio Volo, è The Pills. Straordinario. La mia è tutta invidia. È lo scrittore più celebrato e più preso in giro dalla rete, ma si può ancora fare letteratura dei tempi dei social network, ma soprattutto apriamo il dibattito, come i social network possono essere utilizzati da chi fa letteratura. Ma apriamo il dibattito, ma non ne parliamo io e te tra di noi. No, abbiamo due ospiti straordinari, facciamo sempre i Galanti, partiamo sempre dalle signore, certo. Ce l'abbiamo in studio Alessandra Tedesco, buongiorno Alessandra. Buongiorno, io fra di voi mi verrebbe da dire. Che questa tenerezza. Volta non canta. Questa volta non canta, però la citazione era musicale e io fra di voi. Esatto, una bella citazione anche molto francofona. Alessandra che conduce Il Cacciatore di Libri, quindi ne sa. Si presume, ne sappia. Ne sa. E abbiamo anche in collegamento Hai telefonico. Hai letto Fabio Volo tanto? Ne ho letto uno. No, ma bastava come risposta. Bastava. Uno. Secondo me era perfetta. Cioè, ci fermiamo a. Ma uno. Che snob siete. No, ma invidia. Ne ho letto uno. Va bene. Siamo 2-0, diciamo. Abbiamo in collegamento. Sì. Io lo voglio introdurre. No, prima con chiediamo, la bio. Hai letto un libro di Fabio Volo? Senza prima dire ancora chi di sei. Sapere di chi è, rispondici. Hai letto o non hai letto Fabio Volo? No, No, non ha letto Fabio Volo. Diremo chi è dopo il traffico. No. No, possiamo anche presentarlo. Io lo presenterei subito con la sua bio su Twitter, che è Augusto Manzo and Nabokov Wannabe. Non male. Buongiorno Edoardo Camurri. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccomi. Allora, vabbè. Perché non hai messo Fabio Volo? Wannabe. Beh, per le vendite, secondo me, tutto no, l'ho un detto, pochino. È tutta invidia la mia, ecco. Ragazzi. Potevo mettere, non so, Bill Gates, Wannabe a quel punto, no? Certo. Hai ragione. Edoardo, noi ti abbiamo stanato non solo perché sei scrittore, filosofo, giornalista, ma anche frequentatore dei social in maniera molto particolare, e poi davvero dopo il traffico ne parliamo. Ma letteratura e rete, che, al di là del caso che noi insomma abbiamo preso a spunto in maniera un po' divertente di Fabio Volo, vanno d'accordo? Io a guardare te direi di sì. Vanno d'accordo, perché non dovrebbero? Ci sono studi, no, che leggere, il modo di leggere sulla rete, di guardare le cose, è un po' l'opposto di come invece si legge un libro, dicono, non lo so. Io poi ogni tanto penso che invece oggi Carmelo Bene tipo sarebbe uno youtuber. Ma sì, ma no, ma in realtà tutti questi studi si spiegano per il fatto che ci sono un sacco di gente che deve proporre studi per il sistema accademico. Per cui adesso va la rete, per cui tutti producono studi sulla rete. Essendoci la rete come fenomeno, si studia la rete in tutte le, dicono quelli bravi, declinazioni della vita umana. Ma, come dire, non c'è nessuna incompatibilità fra letteratura e rete. La letteratura esiste, insomma. Amen. Alessandra, secondo te? Allora, sono due cose distinte e separate, naturalmente. Io vorrei lanciare anche una provocazione a questo punto, cioè che se alcuni scrittori imparassero a scrivere in 140 caratteri, probabilmente i loro libri, in modo più sintetico, sarebbero più belli e più efficaci. Poi, chiaramente, al di là della provocazione, sono due cose molto diverse. È chiaro che leggere un libro ha un tipo di impegno, leggere e twittare è un altro tipo di impegno. Una cosa non esclude l'altra. Tra poco ci ritroviamo, ancora con Edoardo Camurri, ancora con Alessandra Tedesco, ancora con Radio Tube. Radio Tube. Rieccoci insieme con Radio Tube. Daniele, non abbiamo ancora detto i nostri account di Twitter, visto che siamo sempre su Twitter ad aspettare che qualcuno ci scriva e che ci dia anche degli spunti per la nostra trasmissione. Allora faccio il mio compitino, Bravo. Vediamo se lo faccio bene. @MartaCagnola, sempre prima per galanteria, @DiBellasio, oppure #RadioTube. Che bravo, bravo. Mi piaceva molto la cosa della sintesi che diceva prima Alessandra. Sai che a me capita spesso di incontrare, non tanto così, ma magari degli artisti, dei cantanti, dei cantautori che dicono: no, a me non piace Twitter perché bisogna essere troppo brevi. Invece è un bel esercizio di stile. Secondo me sarebbe un bellissimo esercizio di stile. Raymond Queneau si sarebbe divertito molto. E io di Fabio Volo ne ho letti 4. Che puntatona, serve il PhD. E dopo aver citato Queneau, da brava laureata in letteratura francese, dico che ho letto 4 libri di Fabio Volo. Ma io vorrei tornare senza vergogna, senza imbarazzo alcuno. No, bisogna leggere tutto nei limiti delle possibilità del tempo. È che, come diceva Troisi, io sono uno a leggere, loro tanti a scrivere. Questo è vero. Allora abbiamo scelto Edoardo Camurri, non solo perché è bravo e simpatico, e poi anche uno che sa usare i mezzi pop, perché da tempo Daniele Bellasio mi segnala dei video irresistibili, dei piccoli video, quasi dei Vine, insomma dei video di durata ridotta ma molto ficcanti, che Edoardo Camurri posta sulla sua pagina Facebook. Sì, perché da quando Facebook è cambiata le mie nuove scoperte. Adesso Facebook si vedono meglio i video, poi partono da soli. Secondo me Edoardo ha colto subito, oppure coincidenza astrale, voleva fare quella cosa lì mentre Facebook cambiava la sua faccia, ed è partito con questi micro video tra letterario e un po' teatro dell'assurdo, un po' situazionismo, non so, come si può dire, tu che hai studiato quelle cose importanti? Io direi che ne mostriamo subito un frammento alla radio. Sono d'accordo. Eccolo qua. La sera, talvolta, l'ingegnere in blu sedeva reticente a tavolate romane più ampie e vocianti, al bolognese o nei paraggi di Via di Ripetta all'aperto, o da Carlo in Trastevere con Moravia Morante e Attilio Bertolucci. E i più giovani, Pasolini, che doveva scappare prima del dolce, perché se no i ragazzini non aspettavano, e tutti, vai, se no vanno a dormire, ragnetti si definivano allora, altro che morettoni, bonazzoni, bistecconi, come poi in seguito col nutrimento. Edoardo, stavi leggendo su un tram? Stavo leggendo sulla funicolare di Bergamo. Ah, sulla funicolare di Bergamo. Devi capire che io sono da 3 mesi in giro per l'Italia per un meraviglioso progetto di Restra di cui non posso dire ancora nulla. Bello. E quindi io giro per l'Italia e poi questi video che tanto posto sono dei pezzetti che forse andranno, forse no, in questi documentari che sto girando. E lì stavo leggendo un brano, ma una cosa completamente improvvisata, dell'Ingegnere in Blu di Arbasino, dove si parlava di Gadda e dove si parlava di queste meravigliose cene. Ecco, quella è la letteratura ancora irrappresentabile, no? Per cui appunto adesso giustamente tutti noi veneriamo Alberto Arbasino, ma in realtà poi verrebbe da chiedersi quanti lo leggono davvero. Io sono d'accordo, ho costretto una volta un amico a comprare America Amore, secondo me non gli ho fatto un grandissimo favore, ma insomma, però mi era piaciuto tanto. Tu hai detto effettivamente è un progetto televisivo e tu sei uno anche che si è fatto anche criticare perché non usi con disinvoltura e secondo me molto saggiamente anche i mezzi pop, insomma, hai lavorato con Maria De Filippi, insomma, le hai sperimentate tutte. Però queste forme di micro video potrebbero essere uno stile da affrontare? Potrebbero benissimo essere uno stile, che sono delle foto espanse, di fatto, dove uno... Anche lì con quella stessa cosa che diceva Alessandra prima, cioè in 40 secondi al massimo, riuscire a fare una cosa intelligente, fine. Tutto qua, che soprattutto ti piaccia, sai, la cosa bella dei social è che non hanno bisogno necessariamente del grande pubblico, perché tu fai esattamente quello che ti pare. E poi hai qualche spirito affine, per dirla con Schopenhauer, che si riconosce, per esempio, e Daniele, che mi sono piaciuti, eccetera, e a quel punto la cosa diventa un po' più condivisa. Io mi ricordo un piccolo esperimento di qualche anno fa di Carrère. Ha fatto un libro di cui non vuole mai parlare perché ha provocato anche nella sua famiglia qualche problema, che si chiamava Facciamo un gioco, che era un tentativo, ante litteram, di fare un gioco di società su un social network, perché tutti stavano leggendo il libro che lui aveva scritto perché pubblicato su un giornale, compresa la persona che era protagonista del libro e anche cui il libro era dedicato, che non l'ha presa molto bene, ma questo è un altro discorso. Il tentativo di riportare dalla rete al mezzo tradizionale per ora non ha ancora provocato il grande capolavoro. Forse è questo, Edoardo, che manca, l'idea del viaggio inverso. Uno deve ficcarsi in testa che i capolavori, perché siamo poi in realtà un po' dopati da queste cose che escono tutti i libri, ogni libro è un capolavoro, ci sono le bandelle, eccetera. Ma ne arriva uno ogni 5, 6, 10 anni. Cioè il resto è rumore bianco, che va benissimo. Io vi vorrei sollecitare anche sulla televisione, perché scherzosamente io e Daniele ce le siamo date per settimane, per mesi su Masterpiece. No, vuoi parlare di Masterpiece? No, ma al di là insomma, ma dopo di che ho vinto così clamorosamente Raffaella, non ricordo il cognome, sul New York Times ha raccontato è una sfida. Però Masterpiece, scusate, io purtroppo l'ho twittato anche pubblicamente, vedi, l'ho twittato, quindi l'ho dichiarato ufficialmente, per me è stata un'occasione fallita. Cioè c'era la possibilità per fare per la prima volta un format televisivo di libri, di narrativa, quindi qualcosa di più accattivante. Certo, non avremmo fatto la saggistica in televisione perché è più pesante, me ne rendo conto, e invece io l'ho trovato noiosissimo. Io quel programma ho anche collaborato, per cui penso che non sempre l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, quindi molte delle critiche che sono state rivolte, tecniche, sono più che comprensibili e legittime. Credo che quel programma lì va visto per essere banalmente un programma di TV, cioè togliamoci dalla testa che si trovava il nuovo Kafka. Uno degli intenti più o meno palesi di Masterpiece era quello di avvicinare alla lettura. A questo punto io chiedo, avvicinare alla lettura attraverso la televisione si può o non si può? E attraverso la rete, Edoardo? Beh, si può, sì. Io ho un ricordo perenne, inciso nella mia memoria, di Aldo Busi in un programma di Augias che si chiamava Babele, che scende queste scale con la musica di Mambo Italiano, un vassoio di cannoli alla crema in mano, e declamava con Veletta le golose di Gozzano. Ecco, io dopo quella scena, il giorno dopo, mi sono letto tutte le poesie di Gozzano. E io dopo Pickwick, ve lo ricordate Pickwick? Io Pickwick avevo il Baricco compito. Zucconi. Io Cormac McCarthy l'ho scoperto lì. Al liceo ce l'avevo di compito, devo guardarlo per forza. La mia poi professoressa... Poi ti piaciucchiava lui, abbiamo già capito. Vabbè. Secondo me adesso, nella chiacchierata, stiamo commettendo un errore. Cioè stiamo concependo la letteratura come una delle cose del mondo. Forse la letteratura è il mondo. Cioè qualcosa di superiore, cioè... in termini, adesso dico, heideggeriani, cioè siamo parlati dalla letteratura, prima ancora che parlanti della letteratura. Oggi sono molto trombone, perché altrimenti sembra una cosa come le altre e la trattiamo come tale. Invece la letteratura è ciò che dà potenza e senso a quello che vediamo e quello che sentiamo, per cui non è tanto uguale alle altre cose. Capite perché io adoro quest'uomo? Perché mi passa da Maria De Filippi a Heidegger nel giro di 4 minuti e no, per farlo sembrare meno trombone, guardiamo un suo video. Sì, io vorrei strano, mostrare. Perché poi fa anche delle cose molto strane. Questa cosa è bellissima, è molto, molto breve. Non so quanto alla radio questo video si veda bene, ma poi vi spiego anche cosa succede. Eccolo qua. Tutti i pensieri ormai sono a trincello, i miei addirittura. Si vive una volta sola, neanche quella. Edoardo, non so se vedremo in televisione questo esperimento che hai fatto, ma io spero di sì, perché cosa è successo con questi uomini straordinari? Allora, io lì ero in cima al Monte Grappa, ed ero al sacrario del Monte Grappa, ed ero con degli alpini che mi hanno portato lì in cima, eccetera. E io lì a loro mi sono inventato questa cantata per voce alpine, in cui ho fatto leggere a ciascuno una frase di Karl Kraus, che è stato uno dei più grandi intellettuali austriaci, delle frasi di Karl Kraus scritte contro la prima guerra mondiale. Quindi sul Monte Grappa degli alpini leggono le frasi di un intellettuale austriaco contro la prima guerra mondiale. Era di un intellettuale che avrebbe usato Twitter benissimo, peraltro. È di un intellettuale che avrebbe usato Twitter da Dio proprio. Sì. E infatti, per paradosso, Jonathan Franzen, che odia Twitter e social, sta scrivendo adesso un libro, l'ha scritto, su Karl Kraus. Alla fine, cioè, tutto sì, non lo so, abbiamo tutto noi trovato, cerchiamo di trovare un equilibrio straordinario. Purtroppo il nostro tempo volge al termine, come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Io voglio solo ringraziare ancora Edoardo Camurri, soprattutto perché ho scoperto chi è Augusto Manzo, perché visto che tu hai scritto Wannabe Augusto Manzo, volevo sapere chi era, quindi ho scoperto che anche qui poi alla fine, niente, gli uomini vanno sempre nel pallone, non c'è niente da fare, Edoardo. Elastico. Vabbè, però insomma, la palla c'è sempre. Grazie a Edoardo Camurri. Ciao, allora, buon viaggio quindi per l'Italia. Aspettiamo di sapere quale sarà questo progetto. Non ti chiediamo ancora niente. Metà maggio, vabbè, allora manca pochissimo. Grazie Edoardo Camurri, buona grazie serata. Grazie. Ciao, grazie. E adesso Alessandra canterà, come sì, in tutte le trasmissioni di Radio 24. Esattamente, vengo sempre a cantare. No, giuro, stavolta non credo di aver causato dei tamponamenti la volta in cui ho cantato per la NEC nomination. Ma non eri affatto male alla radio. Sorvoliamo, però visto che stiamo parlando di Twitter, io vorrei ricordare il mio account. Ma perché? Allora è Ale Teddina, e ve lo ricordo perché ho una scommessa in corso con una delle massime esperte dei social media e anche social media ed editoria, che si chiama Barbara Sgarzi. Ci siamo date un mese di tempo da quando l'ospitate nel Cacciatore di Libri per vedere quanti follower sarei riuscita a conquistare seguendo un po' i suoi consigli, e fra un paio di settimane abbiamo, come dire, il controllo, la visita di controllo. E quindi, dici un consiglio così? Un consiglio per esempio è quello di iniziare a seguire altre persone per cercare di interagire, perché lei dice è reciproco, c'è reciprocità. Io purtroppo sono pigra, non riesco a seguire tante persone. Questo è molto bello, è come sorridere, se sorridi la persona che hai davanti ti sorride. E così è su però Twitter. Posso dirti una cosa, io mi sveglio tutte le mattine con Margaret Atwood. Brava. Perché lei twitta, e per la questione di fuso orario accendo il mio smartphone. A me capita più spesso con uno che non posso citare perché siamo in par condicio. Ok. Invece a me capita con, e Fabio c'entra Volo, ancora immagino, la letteratura, con Bernard Pivot, al quale io dedicai la mia tesi di laurea. Io tutte le mattine mi sveglio con i tweet di Bernard Pivot. Va bene, la prossima volta torna ai cantanti, torniamo a essere estremamente comici, pop, perché ma qui se no. Per questo RadioTube abbiamo concluso, quindi io ringrazio Valeria Bernardi in Ciao, regia Valeria. E quindi a tutti una buona domenica, soprattutto a Daniele Bellasio, che questa sera avrà molto da fare, ma non Forza, diciamo ragazzi. Niente, non diciamo niente. Al prossimo Forza. Fine settimana.